Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti una buona giornata. Non sono bastati 100 miliardi annunciati dall'Unione Europea per mettere in sicurezza le banche spagnole in difficoltà. La settimana su questa notizia è iniziata con un guizzo di entusiasmo nei mercati europei, ma lo ricorderete bene quello che è successo lunedì: nel giro di poche ore quasi tutti gli indici sono tornati in territorio negativo e i rendimenti dei titoli di Stato hanno ripreso a correre. Messa da parte la questione spagnola, almeno parzialmente, non sono scomparsi i timori sui rischi di contagio all'interno dell'area euro, e ora in cima alla lista, a giudicare dalla nuova corsa dello spread, il termometro più osservato negli ultimi mesi, sembrerebbe esserci l'Italia. Da due giorni forti vendite si sono abbattute ancora una volta sui nostri titoli di Stato e sulle azioni delle banche responsabili di avere in pancia centinaia di miliardi di debito italiano. Lunedì, ricorderete, Milano ha perso il 2,8%, ieri un nuovo ribasso nel corso della giornata ha superato i 2 punti, poi sulle finali è andata un po' meglio, ma insomma c'è stata anche una raffica di sospensioni in borsa dei titoli del settore bancario. Lo spread, il differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e quello tedesco, è ritornato a 490 punti per poi scendere, è ripiombato ai massimi da gennaio, con il rendimento del titolo decennale che supera il 6%. Insomma, questa è la nuova situazione degli ultimi giorni in un'Europa che deve costruire un sistema difensivo contro la crisi del debito, ma il mercato è scettico e teme comunque il contagio. A poco sono servite le rassicurazioni delle agenzie di rating, che negli ultimi giorni sono state un po' più benevole nei nostri confronti. Fitch ha detto che è improbabile che l'Italia abbia bisogno di un salvataggio perché non ha problemi di banche come la Spagna. Anche l'Eurogruppo ha escluso che a Roma servano aiuti. I prossimi meeting dei governi europei saranno centrali per mettere uno stop alla nuova tensione, ma insomma la tensione c'è, rimane anche questa mattina. La notiamo sul mercato perché gli indici sono di nuovo tutti negativi. Meno 0,3% il calo medio tra Parigi, Francoforte e Milano in questo momento, Londra perde un po' meno. E allora perché i mercati non si accontentano mai? Cosa stiamo rischiando? Quali sono i vostri dubbi, le vostre domande, le vostre preoccupazioni relative a questo delicatissimo frangente di mercato? Raccontatecelo all'800240024. Commenteremo le vostre riflessioni con Andrea Ragaini, amministratore delegato di Banca Cesare Ponti. Al telefono, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Bentornato anche a Paolo De Rogatis, direttore investimenti di Banca Euromobiliare. Buongiorno. Buongiorno. Naturalmente non mancheremo anche di commentare l'esito dell'asta di Botta 12 anni, appunto, che si è conclusa poco fa. Il Tesoro ha collocato tutto quello che voleva collocare, 6 miliardi e mezzo di euro, ma naturalmente il mercato è stato molto esigente e ha chiesto rendimenti molto salati, al 3,9%, al 3,97%, quindi siamo ad un soffio dal 4%, dal 2,34% dell'ultima asta di maggio, quindi oltre un punto e mezzo di rialzo sui tassi, appunto, chiesti dal mercato. Io lo faccio commentare subito, De Rogatis, l'esito dell'asta di questa mattina. C'era da aspettarsi tassi in salita, questo era un livello che avevate messo in conto? Sì, diciamo che la segnazione dell'asta è avvenuta agli stessi livelli prevalenti nella giornata di ieri, nel pomeriggio di ieri, quindi intorno al 4%. Evidentemente il rialzo dei rendimenti testimonia l'allargamento dello spread sulla scadenza a un anno dell'Italia nei confronti della Germania. La domanda c'è stata, è stata anche, diciamo, in linea con l'asta precedente, intorno a una volta e sette l'offerta, ma evidentemente la domanda c'è a tassi di rendimenti, a rendimenti superiori rispetto a quelli precedenti. Quindi più che il grande rialzo dei rendimenti che c'è stato evidentemente rispetto all'asta scorsa, che era l'asta di metà maggio, e purtroppo dobbiamo dire che le condizioni di mercato rispetto a quelle di metà maggio sono nettamente differenti, e quindi c'è da registrare sicuramente la presenza della domanda anche in una è sempre settimana. Composta prevalentemente da banche italiane, secondo lei? Direi di sì. La composizione in particolare dell'asta bot, in questo caso non vi era neanche l'apertura di un nuovo bot a 3 mesi, in quanto in questo caso il Tesoro aveva saltato il turno del bot a 3 mesi. C'era anche una buona scadenza di cedole e quindi la scadenza del 3 mesi che non veniva rinnovato. Quindi che ci fosse un po' di domanda c'era da aspettarselo. Evidentemente la domanda c'è al rendimento di oggi, e il rendimento di oggi è questo. Il fatto che la domanda sia stata doppia rispetto all'offerta ce lo chiede già un ascoltatore, Stefano, perché non ha avuto un effetto di calmieramento in qualche maniera sul rendimento? Ma evidentemente la domanda si scaletta sui vari livelli di rendimento, quindi il prezzo dell'asta è l'equilibrio tra domanda e offerta di titolo al prezzo in cui si pareggiano le due quantità. Pertanto evidentemente la domanda c'è, è il doppio dell'offerta ma scalettata sui rendimenti superiori, per cui evidentemente l'offerente, che in questo caso è il Tesoro della Repubblica Italiana, trova la domanda mediamente a questo rendimento. Quindi è una buona notizia che vi sia un bid to cover, quindi un rapporto tra domanda e offerta intorno a 1:7, mi sembra, l'offerto. Ma evidentemente questo deve essere letto anche all'interno, anche considerando a quale prezzo si è trovata la domanda, quindi a quale rendimento si è trovata la domanda, qual è il trend di questo movimento di rendimento e di spread, e quanto è stata il movimento negli ultimi 2 giorni. Ecco, noi usciamo da una settimana abbastanza dura per questi spread, proprio perché ci si preparava all'asta, quindi si dice concession, cioè quanto il mercato ha alzato il rendimento, certo, per trovare la domanda che controbilanciava l'offerta. Mm-hmm. Allora, sembra lontani anni luce dai quei 280 punti su cui eravamo ritornati a marzo, dopo aver visto le stelle lo scorso autunno a 570 punti. Questo era il top toccato dallo spread appunto lo scorso autunno. Invece sembra che stiamo inesorabilmente ritornando su livelli preoccupanti. Vedremo se saremo in grado. Chiaramente qui la prova è tutta a carico del governo, le iniziative che può mettere in campo, soprattutto sul fronte della crescita, e poi chiaramente anche la politica europea deve fare il suo. Su questi aspetti ci torneremo. Un'altra domanda per Derogati, se poi vado a Ragaini. Anche la Germania stamattina era alla prova dei mercati, ha collocato Bund a 10 anni per oltre 4 miliardi di euro con rendimenti in lieve rialzo all'1,52% dall'1,47% del mese scorso. Poca cosa, ma è un piccolo segnale che dobbiamo osservare, Derogatis? Assolutamente sì. Nelle ultime giornate il Bund, il decennale, in questo caso stiamo parlando di un'offerta di titoli a 10 anni, mentre prima parlavamo di offerte di titoli a 12 mesi. Quel titolo verso il quale c'è una corsa, esatto, folle da mesi. Negli ultimi giorni ha registrato un sensibile ribasso. Ecco, partivamo da un rendimento dell'1,2 per il Bund a 10 anni e adesso il rendimento registrato questa mattinata è l'1,5, quindi 30 centesimi di rialzo. Ma 30 centesimi di rialzo su una cosa che rende l'1,2 sono un quarto dell'annuale, un quarto del rendimento annuale che si rialza in un giorno però o in 2 giorni. Quindi io ho un quarto del rendimento annuale, quindi sarebbe 3 mesi di rendimento che mi vengono mangiati in una giornata o in 2 giornate. In ogni caso, sul decennale le considerazioni di spread e le considerazioni di equilibrio tra domanda e offerta sono molto diverse rispetto a quelle che si realizzano e si devono considerare sulla scadenza annuale. Invece è molto più grave il 4% della botta annuale rispetto al tasso tedesco a 12 mesi, che è 0,56 centesimi, rispetto allo spread a 450 del decennale, perché il decennale rappresenta l'equilibrio tra domanda e offerta nel futuro, no? Le attese di inflazione e le attese di credibilità nel medio lungo termine. Il bot rappresenta invece la credibilità nel breve termine. La questione dell'immediato, certo. Allora, andiamo un po' adesso alla questione internazionale, che ha di nuovo riprovocato questa grande tensione che sui mercati abbiamo rivisto negli ultimi 3 giorni, come se mai si fosse placata del tutto, per la verità. Andrea Ragaini, perché non sono bastati 100 miliardi annunciati dall'Unione Europea per mettere in sicurezza le banche spagnole in difficoltà? Le interpretazioni dei giornali di questi giorni, le abbiamo lette e rilette, sono legate al fatto che ancora non si capisce se verrà utilizzato il fondo salva stati o il meccanismo di stabilità permanente che entrerà in vigore nei prossimi mesi. Ma davvero è una solamente una questione, come dire, un po' procedurale, o è una cosa sicuramente più complessa? Allora, Allora, temo che sia una cosa più complessa. A livello procedurale, certamente usare due meccanismi comporta degli impatti differenti. L'uso del primo meccanismo, le FSF, che è ancora in vigore, il meccanismo temporaneo, comporterebbe un immediato aumento del rapporto debito-PIL degli Stati europei. Ma ci spiega per quale motivo, così almeno lo facciamo capire anche ai nostri ascoltatori? Volentieri. Allora, il veicolo FSF, che è European Financial Stability Facility, è un meccanismo che non è dotato di risorse finanziarie, ma è dotato semplicemente della garanzia che gli Stati danno pro quota in funzione del loro PIL. Allora, nel momento in cui questi 100 miliardi di euro di risorse stanziate per le banche spagnole venissero richieste a questo veicolo, evidentemente non avendo soldi, questo veicolo dovrebbe ricorrere all'escussione delle garanzie, quindi pro quota andrebbe a chiedere i soldi agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero dare questi soldi perché sono impegnati a farlo, ma non avendoli dovrebbero gravare sul loro debito pubblico. L'Italia, e quindi è come se la Spagna salvasse da sola praticamente le sue banche? È come se la Spagna partecipasse pro quota al salvataggio delle sue banche, ma tanto per dare un'idea in termini di impatto, l'Italia partecipa circa il 19% del PIL europeo, quindi dovrebbe dare su 100 miliardi 19 miliardi. La Spagna partecipa per circa l'8.9%, dovrebbe dare 8,9 miliardi e così via. La Germania 3%, 2 miliardi e così via. Quindi questo è quello che accadrebbe se si utilizzasse il primo fondo. Se si utilizzasse invece il meccanismo di stabilità permanente? Allora, l'European Stability Mechanism, che è un veicolo che dovrebbe partire, anzi partirà il 1 luglio di quest'anno, del 2012, avrà una dotazione a regime di 500 miliardi di euro. Questi soldi verranno veramente immessi dai singoli paesi, dai singoli stati membri, quindi dei 17 stati, pro quota rispetto alla loro partecipazione. Essendo il veicolo inizialmente dotato proprio di 100 miliardi, questi 100 miliardi verrebbero utilizzati per salvare le banche spagnole. I fondi per il veicolo ESM sono già stati stanziati a livello figurativo dai paesi e quindi non avrebbero impatto sui bilanci pubblici. Sul debito pubblico. Esatto. Quindi questo è un problema procedurale, però temo che il problema sia un pochettino a monte del problema procedurale. Una frase che ha riportato anche il governatore Visco nelle sue considerazioni finali è di Tommaso Padoa-Schioppa e dice: l'insidia è di credere che l'euro sia l'ultimo passo, che l'Europa unita sia ormai cosa fatta. Chi più fortemente ha voluto la moneta unica la volle perché aiutasse a compiere altri passi, non perché forse è l'ultimo. Sa che cosa mi ha detto Paolo De Rogatis? Poi dopo la lascio concludere, Ragaini, prima di iniziare la trasmissione. Dice: ma ti sembra un'unione monetaria quella dalla quale parliamo, in un contesto in cui i rendimenti dei titoli italiani volano ai livelli di oggi e il Bund tedesco vale il livello che abbiamo detto prima? Ti sembra, se sembra un'unione monetaria questa, no? E quindi qui racchiudiamo un po' tutto il discorso che stava facendo Ragaini. Corretto, proprio perché i mercati a questo punto non hanno più bisogno di sentire la risoluzione del problema contingente, ma trovare la risoluzione a un problema complessivo, cioè un'evoluzione che passi dall'unione monetaria che abbiamo già e arrivi a un'unione fiscale e a un'unione politica. Evidentemente ormai non basta più risolvere il problema, in questo caso guardiamo il problema della Spagna, è stato risolto addirittura in anticipo, perché il problema si era posto, il Fondo Monetario aveva stimato 40 miliardi di euro necessari, addirittura l'Europa ne ha messo a disposizione 100, più del doppio, quindi un intervento fatto per la prima volta un po' in anticipo e anche in abbondanza, ciò che non abbiamo mai visto in questi anni. E non è stato sufficiente, perché purtroppo ormai non servono più passi anche importanti ma parziali, serve un passo totale, unitarietà fiscale, unione bancaria europea, eurobond. E questa cessione di sovranità nazionale, appunto, che di fronte alla quale ieri mi sembra che Angela Merkel abbia fatto una modesta e timida apertura, forse anche lei si è ormai resa conto che il suo atteggiamento di irriducibile non ha più alcun senso. Vedremo se ci saranno dei passi concreti nei prossimi vertici delle prossime settimane. Adesso ci fermiamo, c'è il primo blocco pubblicitario, poi andremo anche subito ad ascoltare le preoccupazioni dei nostri ascoltatori di fronte a questa situazione. C'è chi è del tutto disinteressato a quello che accade ai mercati, per la verità, perché alle prese con le scadenze fiscali, in questo mese lo abbiamo visto nelle ultime puntate, con l'IMU da pagare entro il 18 giugno, c'è invece chi guarda sicuramente invece con grande attenzione agli scenari internazionali che si stanno manifestando sui mercati, perché magari hanno conservato il loro portafoglio investito, anche diversificandolo al massimo, e quindi chiaramente si chiedono se è il caso di mantenere inalterate le posizioni o cominciare a cambiarle. Allora, cosa è successo stamattina? Che c'è stata l'asta di titoli di Stato prevista per oggi, appunto il Tesoro ha collocato bot annuali per 6 miliardi e mezzo di euro con un rendimento schizzato al 3,97% dal 2,34 di maggio. Un altro appuntamento con BTP è fissato per domani, insomma questo è stato il pretesto per noi anche per ritornare a fare un po' il punto della situazione per capire com'è giusto che i risparmiatori in questo momento orientino le loro fatiche, i loro risparmi, per l'appunto la corsa ai conti di deposito sta peraltro continuando, e tra l'altro la garanzia dei depositi dei risparmiatori europei è un grande tema in questo momento, al centro anche del dibattito dei governi dell'Eurozona. Poi ci faremo spiegare dai nostri ospiti a che punto è questo dibattito e che cosa si intende costruire esattamente per salvaguardare risparmiatori e contribuenti. Intanto però volevo cominciare a sentire anche le domande degli ascoltatori, perché sono preoccupati per tante cose. Allora sentiamo subito Giuseppina dalla provincia di Varese. Giuseppina, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei si chiama come la mia mamma, lo sa? Grazie, mi fa piacere. La mia domanda è questa: cosa rischia chi ha un mutuo a tasso variabile da pagare se fallisse l'euro e dovessimo tornare alla lira? Potendo, conviene chiuderlo prima? Ah, Giuseppe, guardi, allora intanto qui c'è una mia filosofia che è molto chiara. Io potendo, lo dico sempre, me lo toglierei di torno molto rapidamente, euro, dracma, peso, su tutto quello che vogliamo, appunto. Detto questo, intanto adesso è sicuramente un mutuo molto conveniente, perché soprattutto se lo si è stipulato, come dire, 5-6 anni fa, adesso con i tassi europei ai minimi storici assoluti, e forse chissà che Draghi non metta di nuovo mano anche ai tassi di interesse nell'Eurozona, perché anche questa richiesta gli viene fatta. Lui ancora non vuole accontentare chi gliela fa, preferisce altre operazioni straordinarie sul mercato, appunto per sostenere la situazione finanziaria in questo momento. Però di sicuro le rate sono scese molto. Paolo De Rogatis, però, a parte questo, a parte la convenienza attuale della rata, non per chi sottoscrive mutui nuovi, perché in questo momento il mercato è inaccessibile, le banche dicono no, gli spread sono altissimi, ma per chi ce l'ha aperto da qualche anno, adesso sicuramente la rata è molto bassa. Se dovessimo tornare nel giro di poco tempo alla lira, ipotesi che nessuno vuole sicuramente prendere in considerazione, cosa succede a noi che abbiamo il mutuo a tasso variabile derogatis? Perché mi ci metto dentro anch'io. Anche io. Ecco. Stiamo utilizzando il congiuntivo imperfetto, no? Se dovessimo. Allora, il trattato dell'Unione Europea Monetaria non prevede in alcun articolo la possibilità per un paese di uscire dall'Unione Monetaria Europea, che per definizione è irrevocabile, cioè non è che facciamo le elezioni, cambiamo, semmai è l'Unione Europea che ha delle procedure di espulsione di un paese, ma sono procedure molto, come dire, scritte in un articolo, ma non difficilmente fattibili. Quindi in realtà stiamo parlando di un cambio di contesto a livello proprio della circolazione monetaria non previsto da nessuna parte. L'unica cosa che si può dire certamente è che ci saranno, diciamo, delle, non dico quasi la fortuna degli avvocati o della categoria, ma stiamo parlando di ridenominazione eventuale di contratti tra due soggetti di diritto italiano, ma stiamo parlando di una eventualità veramente fantascientifica. No, lei ha ragione. Il problema è che però poi gli ascoltatori si confrontano con, per esempio, le dichiarazioni di Christine Lagarde, che ieri ha detto ci sono 3 mesi di tempo per salvare l'euro. Allora, di fronte a disegni così preoccupanti, che autorità di tutto rispetto disegnano, è chiaro che poi è legittimo che qualcuno questa domanda se la faccia. Ma questa è una domanda che è stata fatta purtroppo anche in altri casi, in altri contesti. Evidentemente un contratto tra due soggetti di diritto italiano denominato in euro teoricamente dovrebbe poi portarsi nella nuova valuta. Che cosa può succedere? Può succedere che l'indicizzazione del mutuo variabile dovrebbe essere indicizzata poi al nuovo Euribor, fatto non più su base euro ma base locale. Ma qua stiamo parlando ancora una volta di fantascienza. Quindi teoricamente i tassi dal libro di scuola, nel caso in cui succeda questa roba qui, che è assolutamente fantascienza, i tassi salgono, perché si genera il paese si riappropria della capacità di stampare moneta, e quindi tecnicamente tende a stamparne un po' troppa, e quindi a fare inflazione, e quindi la banca centrale dovrebbe alzare i tassi e quindi l'indicizzazione sale. Ma di nuovo si tratta di una ipotesi fantascientifica in cui l'impoverimento è così fantascientifica, non perché non possa accadere, ma perché nessuno ne ha mai considerata che possa accadere, in quanto l'Unione Europea Monetaria è irrevocabile. Però insomma, sul fatto del ritorno alla dracma non è che non se ne sia proprio parlato in questo momento, anche addirittura l'uscita temporanea. Non parlano di ritorno alla dracma, parlano di una circolazione diversa dall'euro, perché non è che ci sono i magazzini pieni di dracme in Grecia. Esattamente, come non ce ne abbiamo di lire. Peraltro, per cui alla fine si tratterebbe di riappropriarsi della capacità di stampare moneta, e quindi di avere la politica monetaria propria e quindi di stamparne di più, di svalutare la moneta, la nuova moneta, la nuova dracma, quella che sarebbe, e diciamo fare le cose che vanno meglio al paese e non più le cose che vanno meglio all'area euro. Quindi si tratta, peraltro, uno stavo pensando, nel momento in cui uno ha un mutuo anche una casa, per cui non ha soltanto... diminuirebbe sensibilmente il suo valore. Direi che l'impoverimento complessivo, ma peraltro il nostro primo ministro, il presidente della Banca Centrale Europea ha parlato, ma tutti, non c'è consenso nella comunità economica sul concetto che l'uscita disordinata dall'Unione Monetaria Europea irrevocabile provoca un generale impoverimento delle generazioni attuali e future, e quindi un bilancio tra costi e benefici porterebbe tutti a pensare che è meglio starci dentro. Chiaramente questa è la scelta razionale. Una scelta non razionale comporta non soltanto la parte della passività, quindi della signora, quindi del mutuo, ma anche la parte dell'attività. È evidente che in un paese, in un contesto locale più povero, anche tutto vale di meno, quindi non è soltanto il problema del passivo, è un problema generale di impoverimento della generazione attuale e delle generazioni future. Quindi, per cui, insomma, se i governi europei si prendessero questa responsabilità, devono ma credo che lo sappiano molto chiaramente quello che potrebbero andare. Noi abbiamo fatto l'Europa come qualcosa di irrevocabile. Di qualcosa che ci ha, di un percorso che è stato prima leggero e poi diciamo duro attraverso l'Unione Europea monetaria, di un percorso che deve fare poi tappe successive di unione che possono essere fiscale, bancaria, politica, di un percorso che ha assicurato la pace. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa. Qualora in questa ipotesi fantascientifica che lei ci indica dovesse questo succedere, non è che noi oggi abbiamo pagato la rata di un mutuo e domattina ci troviamo immediatamente appunto un'eventuale conversione della rata del mutuo in lire, cioè sono anche se è irreversibile, come lei ha detto, qualora diventasse reversibile la costruzione dell'Unione Europea, che è ancora tutto un concetto un po' per certi versi anche aleatorio, poco concreto in tanti aspetti, non è che appunto si fa dall'oggi al domani ritorno indietro. Ma neanche l'euro si è fatto dall'oggi appunto stiamo andando ancora avanti. Comunque, detto questo, chiudiamo questo discorso. C'era solo una cosa che volevo dire a Giuseppina. Forse per me io il mutuo un po', se non lo vuoi chiudere del tutto, ma questo è un altro ragionamento che non ha nulla a che fare con le difficoltà dell'euro, se ha anche questa preoccupazione e ha magari anche la disponibilità finanziaria per fatto, magari se lo potrebbe alleggerire, la metterebbe un pochino più in condizioni di sicurezza personali, ma questo è un pensiero assolutamente mio, Giuseppina. I nostri esperti magari la pensano in un altro modo. Ragaini, torno a lei. L'appassionata, il discorso che abbiamo fatto fino a questo momento, voleva aggiungere qualcosa? No, assolutamente è un'ipotesi di studio, però capisco che sia un problema molto concreto. Non essendoci scritto nulla, potrebbe essere scritta qualunque cosa nel futuro. Quindi anche perché io credo che anche voi vi confrontiate ogni giorno con clienti e gestite persone con discreti patrimoni che vi chiedono suggerimenti sul fatto di portare magari altrove il proprio risparmio, perché sono assolutamente sicura che questa è una discussione che fate ogni giorno ai vostri tavoli, Ragaini, è così? Certo, assolutamente la preoccupazione è elevata e la preoccupazione vale nel caso della signora per un rapporto passivo, vale a maggior ragione probabilmente nel caso di un rapporto attivo, e quindi sono discorsi che con i clienti si fanno. Occorre ridurre il più possibile l'emotività delle scelte di investimento, evitare scelte polarizzate 0-100, l'Europa ci sarà, l'Europa non ci sarà, l'euro sopravviverà o non sopravviverà. Si tratta in modo molto razionale di diversificare il portafoglio inserendo diversificazione valutaria, quindi mettendo anche in conto che ci potrebbe essere uno shock dell'euro, ma senza dire con certezza ci sarà, perché non è un'ipotesi probabile. Abbiamo una domanda su questo per voi, sembrava proprio pronta, fatta apposta, insomma, l'intervento di Andrea da Udine. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Guardi, premettendo un pessimismo sull'Italia, quindi non so quanta fantascienza possa esserci nell'intervento di prima, di conseguenza sulla tenuta dell'euro, osservando anche negli investimenti il calo nella crescita dei paesi emergenti, mercati azionari ovunque molto molto volatili, mi chiedo qual è una possibilità di portafoglio attendista vista per i prossimi 6, 9, 12 mesi. Lei dice non che faccia moltiplicare il mio rendimento, ma che quantomeno lo conservi parzialmente. Oggi il problema è conservare quel poco che si ha, e almeno a parer mio. E mi chiedo se fondi monetari, fondi obbligazionari assolutamente diversificati in valute, in paesi di emissione e stando fuori assolutamente dall'Italia, se questo sia possibile realizzarlo. Grazie Andrea, qua avremo bisogno di una trasmissione che dura 3 ore. Andrea Ragaini, le giro la riflessione dell'ascoltatore. Lui dice, insomma, io a questo punto mi sono assolutamente reso consapevole del fatto che chiaramente non ci regala più niente nessuno, in passato forse qualche premio di troppo è arrivato da ogni tipo di mercato, adesso invece quantomeno l'ottica della prudenza, come ci suggerisce dove di muoverci, ci chiede Andrea. Allora, la conservazione del patrimonio è un elemento essenziale della gestione dei patrimoni, quindi l'obiettivo che si deve dare in modo equilibrato alla gestione del patrimonio non è quella di diventare ricco con quel patrimonio, perché sennò ci si espone a dei rischi davvero molto grandi, ma è conservare la ricchezza che si ha nel tempo. E quindi la diversificazione che diceva poi l'ascoltatore tra strumenti di investimento come fondi come uno SICAV, al cui interno ci siano valute differenti, paesi differenti, è sicuramente un'alternativa importante. La diversificazione ha tante gambe, la prima è la diversificazione di valuta, euro, non euro, e fuori dall'euro il dollaro, la corona, il franco svizzero, la sterlina inglese e così via, quindi diversificazione valutaria. Poi abbiamo la diversificazione per area geografica, investo in Italia, l'ascoltatore ha detto non mi piace, io sono un po' più ottimista, ma avrei bisogno di tanto tempo per raccontare perché sono più ottimista sull'Italia. E allora la invito un'altra volta così ce la racconta. Intanto andiamo volentieri, ma fuori dall'Italia, in Europa, dove in Europa e fuori dall'Europa dove, quindi diversificazione geografica la seconda gamba, e poi diversificazione per emittente. Se inseriamo un emittente in portafoglio non può rappresentare più del 5-10% dell'intero portafoglio, quindi rispettando queste regole molto semplici si può costruire anche a livello di fai da te oppure con un consulente dedicato un portafoglio di investimento che riesca a reggere l'urto di situazioni che oggi riusciamo a definire ma non riusciamo a quantificare. Chi di sicuro non ha deluso le aspettative negli ultimi mesi sono stati gli Stati Uniti, perché sono l'unica area che praticamente hanno, almeno negli indici azionari, un saldo attivo anche piuttosto positivo. Il Nasdaq guadagna il 9% dall'inizio dell'anno, lo Standard & Poor's più 5%, il Dow Jones più 3. In Europa sentite che cosa facciamo: il FTSE MIB fa meno 14 dall'inizio dell'anno, la Spagna meno 23, l'indice di Atene meno 28, ma anche le altre piazze più solide non è che si siano comportate molto meglio. Parigi perde 3,5 punti, Francoforte è positiva per 4,5 punti. Questo è il quadro, molto eterogeneo anche sui mercati azionari, però Wall Street sembra essersi rimessa in pista, e questo forse motiva anche il disappunto manifestato a più riprese nelle ultime settimane dal presidente Obama nei confronti dei governi dell'Eurozona. Vediamo un po' adesso cosa fa Milano, meno 0,51% sul FTSE MIB, però oggi le vendite non si accaniscono sulle banche, bensì sul settore industriale. Forse le hanno vendute fin troppo negli ultimi giorni, più in basso di così probabilmente qualche operatore penserà non possono scendere, quindi preferiscono riacquistare i titoli del settore bancario. Allora, anche a Paolo De Rogatis di Banca Euromobiliare volevo far fare un portafoglio conservativo. Ci metto insieme, dottor De Rogatis, la domanda di Luca dalla provincia di Venezia. Luca, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti. Sì, buongiorno, io ritorno sempre appunto sull'argomento, mi pare quello più scottante, cioè fallimento dell'unione monetaria e ritorno alle valute dei vari paesi. Ecco, oltre alla diversificazione valutaria, cioè comprare vari strumenti che vengono in dollari, in corone, in sterline, per quanto riguarda la liquidità, sarebbe una buona mossa aprire un conto corrente senza andare in Svizzera, ma magari anche in Austria o in Germania, in modo che se eventualmente si ritornasse alle valute dei vari paesi, la conversione da euro scellino o da euro a marco sarebbe meno penalizzante rispetto a quello tra euro e lira italiana? Luca, la ringrazio. Allora, De Rogatis, assunto il fatto che lei all'ipotesi della disgregazione dell'euro non ci crede, che al ritorno della lira non ci crede, nessuno di noi vorrebbe fare questo passo indietro, che sarebbe veramente un fallimento troppo clamoroso per tutta la storia di questa Unione Europea, che comunque è ancora molto giovane e deve per la verità costruirla tutta ancora la sua storia. Le perplessità delle persone ci sono, e sentiamo un po' lei quale farebbe la miglior diversificazione valutaria in un'ottica di preoccupazione come quella che ci ha manifestato Luca, oppure anche in un'ottica sua personalissima, quali sono secondo lei le valute che in questo momento possono dare delle soddisfazioni o comunque una maggior protezione possibile? Sì, io volevo partire dall'osservazione dell'ascoltatore e dalla tua. Non è un passo indietro per noi, è un passo indietro per i nostri figli, non è un passo indietro, è una serie di passi indietro per noi e per i nostri figli. L'euro, dicevo, è parte di una costruzione europea ed è una qualcosa di irrevocabile. Quindi qualunque cosa si immagini si deve, come ha detto il collega prima, si deve riscrivere. Quindi non possiamo dire cosa possa accadere. L'euro l'Europa non è soltanto una sola moneta, ma è, oltre ad essere un mercato, è anche la libera circolazione di persone, di merci, di capitali. Per cui per me, per l'ascoltatore, è possibile andare, saltare la frontiera, il valico, andare in Austria e aprire un conto. Perché no? Cosa possa accadere dopo, però, non è scritto da nessuna parte, perché nel momento in cui diventiamo tutti più poveri e diventiamo esattamente, come dire, l'impoverimento generazionale diventa così chiaro, noi non possiamo escludere anche meccanismi di controllo dei capitali. Certamente, non è detto che diventi più complicato anche il rapporto con quel paese che lui ha scelto, quindi anche andare a liquidare esattamente il suo denaro. O l'esistenza, la possibile imposizione di dazi. Spesso si dice, si esce dall'euro e si svaluta la moneta. E se quelli che non sono usciti o comunque quelli che sono rimasti forti ci mettono dei dazi? Le politiche commerciali tolgo l'effetto favorevole della svalutazione. Quindi, esatto, non è che non andrei oltre. Il meccanismo rende inalterate le condizioni degli altri paesi che magari sono stati più virtuosi, anche per loro si aprono degli scenari piuttosto preoccupanti, a partire dalla grande Germania. C'è tutto quel discorso della disomogenea distribuzione della liquidità all'interno dell'area euro, il problema del target 2, dei saldi del sistema dei pagamenti all'interno dell'area euro. Nessuno diventa più ricco, tutti diventano molto più poveri, per cui è una cosa che non accade. Ora, diversificare è certo che bisogna diversificare sempre e comunque nei tempi buoni e nei tempi cattivi. E questo è il modo in cui ci ha fatto passare questi anni la diversificazione. Diversificazione, come correttamente è stato detto prima, si può diversificare su varie direttrici, non ultima anche le scadenze. Io non è che devo pensare che obiettivamente se rimango molto corto sulla scadenza dei miei investimenti è il tempo che mi aiuta e il tempo va a portare a mio favore, nel caso soprattutto di un paese come il nostro che non ha evidenti necessità di soldi adesso. Per cui diversificare è sempre giusto. Questo inciso che ha fatto per ultimo non ci è piaciuto. Ma adesso. Certo, l'Italia è un paese con un rilevante avanzo di bilancio che tende ad avere una situazione di sostanziale pareggio. Parla dell'avanzo primario, quello al netto degli interessi, perché purtroppo quelli però bisogna conteggiarli. Certamente, ma tutti hanno i debiti, non soltanto noi. L'Unione Europea, come in vista in maniera aggregata, ha dei parametri di finanza molto migliori di quelli degli Stati Uniti. Quindi sempre corretto diversificare. Si diversifica su tante direttrici di rischio. Attenzione che la diversificazione, questo è il consiglio che do a mio papà, attenzione che la diversificazione non deve eccedere poi certi livelli, perché altrimenti vuol dire essere all'incontrario. Esatto, non polverizzare. Non avere l'euro come base, perché altrimenti mi allontano troppo come base. Secondo luogo, la diversificazione deve sempre tener conto del fatto a chi presto i soldi, perché non vorrei che non presto i soldi all'Unione Europea e vado a prestare a paesi profondamente indebitati di cui conosco veramente poco le dinamiche o che mi dicono che sono all'interno di un ciclo di crescita ma in realtà sono all'interno di un sensibile accumulo di debito. Io quello che dico è che, per esempio, diversificare, cioè qual è la risposta vera ai tassi bassi della Germania? È l'acquisto delle azioni tedesche. Noi abbiamo sentito prima, le azioni sono volatili e quantomeno pericolose, tra virgolette, se viste da questa parte del mondo, ma se viste dalla parte americana, dove sono anni che crescono, dalla parte tedesca, dove sono anni che crescono, forse diversificare i tassi bassissimi, storicamente anomali, con un portafoglio di aziende che crescono nei mercati che crescono è sbagliato. Quindi anche diciamo dal punto che di vista conservativo, la corsa alla Germania può anche essere adesso responsabilmente cambiata un po', piuttosto che prendersi in maniera così accanita ed esasperata i titoli di Stato, cominciare a puntare sul mercato azionario tedesco. I titoli di Stato tedeschi assicurano un rendimento reale negativo e tra un po' e così le invogliamo anche a non voler disgregare l'aura, perché sono l'area euro, perché tutte le aziende tedesche esportano tantissimo in tutto il resto d'Europa. Questo è un altro discorso. Andiamo all'appuntamento con l'INPS. Oggi parliamo dei requisiti che, se raggiunti entro il 31 dicembre 2011, permettono di andare in pensione seguendo ancora le vecchie regole. Sentiamo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. A parte gli esodati, la riforma prevede che possano andare in pensione i lavoratori che hanno maturato i requisiti validi in precedenza entro il 31 dicembre 2011. Quali sono i requisiti che devono possedere a quella data? La riforma stabilisce effettivamente che possono andare in pensione secondo le vecchie regole i lavoratori che hanno maturato i vecchi requisiti entro il 31 dicembre 2011. In pratica, per la pensione di vecchiaia, erano richiesti 65 anni di età e 20 di contributi per i lavoratori dipendenti privati e pubblici o per lavoratori autonomi. 60 anni di età e 20 di contributi per le lavoratrici dipendenti del settore privato o autonome. 61 anni di età e 20 di contributi per le dipendenti pubbliche. Per quella di anzianità erano richiesti 40 anni di contributi o il raggiungimento delle cosiddette quote, intese come somma tra età e contributi. Quota 96 per i lavoratori dipendenti, almeno 60 anni di età e 36 di contributi, o 61 anni di età e 35 di contributi. Quota 97 per i lavoratori autonomi, almeno 61 anni di età e 36 di contributi, o 62 anni di età e 35 di contributi. Grazie ad Andrea Ragaini e Paolo De Rogatis per essere stati con noi. Vi ricordo che domani con il Sole 24 Ore c'è la guida, lo sportello del Sole 24 Ore, la tua polizza per l'auto. Noi ci risentiamo a Salvadanaio domani. A tutti buona giornata.